Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 27 Paolo è condotto verso Roma da Giulio Centurione. Naviga per vari paesi, ma avendo il vento contrario. Appena arrivano a un certo luogo della Candia, da cui partendo patiscono gran tempesta, e finalmente consolati da Paolo, il quale racconta la rivelazione avuta della salvezza di tutti, gli esorta a prender cibo, fatto naufragio. Arrivano tutti a salvamento. Dopo che fu stabilito che Paolo andasse per mare in Italia e che fosse consegnato con gli altri prigionieri ad un centurione della corte augusta, chiamato Giulio, entrati in una nave di Adrumeto, facemmo vela, costeggiando i paesi dell'Asia, accompagnandoci Aristarco Macedone di Tessalonica. E il dì seguente arrivammo a Sidone. E Giulio, trattando Paolo umanamente, gli permise di andar dagli amici e di ristorarsi. Di lì fatta vela navigammo sotto Cipro, a motivo che erano contrari i venti. E traversando il mare della Cilicia e della Panfilia, arrivammo all'Istra della Licia. E quivi avendo il centurione trovata una nave alessandrina, che andava in Italia, ci trasportò sopra di essa. E per molti giorni navigando lentamente, ed essendo con difficoltà arrivati di rimpetto a Gnido, perché il vento ci impediva, costeggiammo la Candia lungo Salmone. E stentatamente costeggiandola, arrivammo a un certo luogo, chiamato Buoni Porti, vicino al quale era la città di Talassa. E avendo consumato molto tempo, e non essendo più sicuro il navigare, perché era passato il digiuno, Paolo gli ammoniva, dicendo loro: Io veggo, o uomini, che la navigazione comincia ad essere con nocumento, e perdita grande non solo del carico, e della nave, ma ancora delle nostre vite. Ma il centurione credeva più ai piloti, e al padron della nave, che a quanto diceva Paolo. E non essendo buono quel porto per isvernarvi, la maggior parte furono di sentimento di partirne. E se in alcun modo avessero potuto giungere a Fenice ivi svernare. E spirando leggermente l'austro, credendosi sicuri del loro intento, avendo salpato da Asson, costeggiava la Candia. Ma poco dopo si spinse contro di essa un vento procelloso, che si chiama Euroaquilone. Ed essendo portata via la nave, né potendo far fronte al venuto, abbandonata al vento la nave, eravamo portati. E correndo sotto una certa isoletta chiamata Cauda, a malapena potemmo renderci padroni dello schifo. Ma tiratolo su, si valevano degli aiuti, fasciando con funi la nave, e temendo di darne le secche, calato l'albero così erano portati. Ma essendo noi battuti gagliardamente dalla tempesta, il dì seguente fece il getto delle merci. E il terzo giorno con le loro mani gittarono via gli attrezzi della nave. E non essendo comparso né sole, né stelle per più giorni, e premendoci la burrasca non piccola, era già tolta a noi ogni speranza di salute. Ed essendo già lungo il digiuno, allora stando in piedi Paolo in mezzo di essi, disse: Conveniva, o uomini, che facendo a modo mio, non vi foste allontanati dalla Candia. E vi foste risparmiato questo strapazzo, e questo danno. Ma ora vi esorto a star di buon animo, imperocché non si perderà anima di voi altri, ma solo la nave. Imperocché mi è apparso questa notte l'angelo di quel Dio, di cui io sono, e a cui servo, dicendomi: Non temere, o Paolo, fa d'uopo, che tu sii presentato a Cesare, ed ecco, che Dio ti ha fatto dono di tutti quelli che teco navigano. Per la qual cosa state di buon animo, o uomini, imperocché ho fede in Dio, che sarà, come è stato a me detto. Noi dobbiamo dare in una certa isola. Ma venuta la quarta decima notte, navigando noi pel mare Adriatico, circa la metà della notte i marinari sospicavano che si avvicinasse loro qualche paese. E gettato lo scandaglio, trovarono 20 passi. E tirando un pochetto innanzi, trovarono 15 passi. E temendo di non dare in luoghi aspri, calate da poppa 4 ancore, bramavano che venisse il giorno. e cercando i marinari di fuggir della nave, e avendo messo in mare lo schifo col pretesto di cominciare a stendere le ancore dalla prora, disse Paolo al centurione, e ai soldati, «Se costoro non restano nella nave, voi non potete essere salvi». Allora i soldati troncarono le funi dello schifo, e lasciaron che se ne andasse. E principiando a farsi giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo, dicendo, «Oggi è il quarto decimo giorno, che appellandovene state digiuni senza prendere cosa alcuna. Il perché vi esorto a prender cibo, a fine di salvare voi stessi, imperocché non perirà un capello della testa di alcun di voi». E detto questo, prese del pane, ringraziò Dio alla presenza di tutti, e sprezzatolo cominciò a mangiare. E tutti ripreso coraggio, anch'essi pigliarono nutrimento. Eravamo nella nave in tutto 276 anime. E saziati di cibo alleggiavano la nave, gettando in mare il grano. E fattosi giorno, non riconoscevano quella terra, ma osservarono un certo seno, che aveva lido, al quale avevano pensato di spinger la nave, se avesser potuto. E tirate sulle ancore, si abbandonavano il mare avendo insiememente allargati i legami dei timoni, e alzato l'artimone secondo il soffiare del vento andavano verso il lido. Ma essendoci imbattuti in una punta di terra, che aveva da due lati il mare, arrenarono, e la prora affondatasi rimania immobile. La poppa poi per la violenza del mare veniva a sfasciarsi. Il disegno dei soldati si fu di ammazzare i prigioni, affinché qualcheduno salvatosi a nuoto non scappasse. Ma il centurione bramoso di salvar Paolo, impedì loro di ciò fare, e ordinò, che quelli, che potean nuotare si gettassero giù i primi, e andassero a terra. Gli altri poi li portarono parte sopra tavole, parte sopra gli sfasciumi della nave. E così ne avvenne, che tutti scamparono a terra. Note 27,1 Dopo che fu stabilito, et da Festo, centurione della corte Augusta, ovvero di una corte della legione chiamata Augusta. 27,2 Entrati in una nave di Adrumeto, e Adrumeto era città marittima dell'Africa, ed era molto celebre per il suo traffico. Vedi Procop, Ist, Vandal. 2. Questa nave era venuta con merci di Africa per la Siria, e avea preso il carico di merci della Siria per portarle nella Licia, V5, accompagnandoci Aristarco e questi convertito da Paolo nella Macedonia lo aveva accompagnato fino a Gerusalemme, e lo accompagna adesso da Cesarea fino a Roma, dove prestar doviagli gran soccorso, e consolazio e avere anche parte alle catene dell'Apostolo. Vedi l'Epistola ad Filem. 2, 4, Coloss. 4, Dieri. 27,3, a Sidone, città non molto lontana da Cesarea. 27,4, navigammo sotto Cipro, e ci avendo il vento contrario, in cambio di andare addirittura da Sidone a Mira della Licia, lasciando Cipro alla destra, fummo obbligati a torcere il nostro cammino, e lasciar Cipro alla sinistra, e perciò a far quasi il giro dell'isola. 27,5 Arrivammo all'Istra della Licia. Questa Istra della Licia non è conosciuta da geografi, onde si crede che abbia a leggersi Mira, come si trova nel greco testo, e non l'Istra. 27,6 Una nave alessandrina, che andava in Italia, e ci venivano da Alessandria di Egitto, molte merci di Persia, e dell'Indi, e particolarmente grandissima quantità di grano dell'Egitto, il qual paese era quasi uno dei granai di Roma in che tempi, nei quali era, per così dire, immensa la popolazione di quella città. 27,7 Navigando lentamente. Arrivati di rimpetto a Gnido, e Cinnido è l'isola di tal nome, celebre pel Tempio di Venere. Ella è posta tra l'isola di Candia, e il promontorio chiamato Purnido. Vuol adunque dire S. Luca, che arrivati di rimpetto a Gnido seguitarono la punta orientale della Candia verso Capo Salmone. 27,8. Buoni porti, ovvero bei porti, come ai Greco, è porto della Candia nella estremità orientale di quell'isola. 27,9. Perché era passato il digiuno, e ci vale a dire, era passato il tempo del digiuno solenne degli ebrei, chiamato il giorno della espiazione, che era ai 10 del mese Tisri, che è quanto dire verso la fine di settembre, o ai primi di ottobre, nel qual tempo principia il mare ad essere procelloso, onde dice giudiziosamente esse. Luca, che essendo già passato il giorno del digiuno, non potevano più promettersi navigazione tranquilla. 27,10. Io veggo, o uomini, e ci Paolo vedeva ciò non tanto dalle regole ordinarie della natura, quanto per rivelazione divina. 27,12. Fenice. Questo porto di Fenice situato in una punta di terra volgeva da differenti parti ad ambedue questi venti diversi. Affrico che soffia da occidente d'inverno. Coro. O Cauro da occidente estivo. Noi chiamiamo il primo libeccio, l'altro maestro. 27,13. Espirando leggermente l'austro, credendosi e soffiando il vento noto, ma sì leggermente, che non impediva di far tenere alla nave il suo corso, prendendogli questo e a poppa, e dal fianco sinistro, onde non permetteva loro di allontanarsi dalla Candia, si tenevano come sicuri di arrivare a Fenice, che è dallo stesso lato dell'isola, dove è buoni porti, e in poca distanza da quello. Avendo salpato da Asson, costeggiava alla Candia. Non si fa menzione da nessuno degli antichi geografi di alcun porto di questo nome nella Candia. Il greco porta, tirando avanti, costeggiavano più da vicino la Candia. 27,14. Si spinse contro di essa e ci cioè contro l'isola di Candia, dalle coste della quale fu portata via la nave. Euro Aquilone. Dice S. Luca. Che questo vento apporator di tempesta era l'Euro Aquilone, cioè, che soffiava tra Levante e Settentrione, contrarissimo a chi doveva andare verso l'Italia. 27,16. Isoletta chiamata Cauda, Cauda, o Claudia. Isoletta vicina alla Candia. A malapena potemmo renderci padroni dello schifo. Tale era la furia del vento, e lo sconvolgimento del mare. Che appena potemmo trar dentro la nave lo schifo, a fine di impedire, che urtando continuamente nella nave, non la danneggiasse, e non fosse esso pure fracassato. 27,17. Si valevano degli aiuti, e, secondo l'uso ordinario della parola greca aiuti in questo luogo sono gli operai di diverse arti, i quali si tenevano sopra le navi per gli usi necessari, come legnaiuoli, fabbri, e talvolta anche ricorrere agli aiuti dicevansi i marinari, quando a quello che essi soli non avrebbero potuto fare, si facevano prestare aiuto dalle persone di qualsiasi condizione, che nella nave si ritrovavano, soldati, passeggeri, e ci come qui, dove si trattava di cingere con grosse funi i fianchi della nave per rinforzarla contro l'impeto dei venti, e dei flutti. E temendo di dar nelle secche. In una delle due sirti, ossia seni pieni di arena nell'Africa, verso le quali infatti portavagli il vento nemico. Calato l'albero e ci suole calarsi, e anche nei repentini pericoli tagliarsi l'albero maestro, affinché battuto dal vento non faccia piegare, o affondar la nave. 27,21. Ed essendo già lungo il digiuno. La grande agitazione non solo toglie ogni desiderio di cibo, ma cagiona eziandio somma inappetenza, e nausea. Al che si aggiunga il timor della morte imminente. 27,24. Dio ti ha fatto dono ha fatto dono a te, alla tua carità, alle orazioni, che tu hai fatto per la comune salute, della vita di tutti coloro, che son teco. Tanto può presso Dio il merito. E l'orazione di un giusto ancor vivente. Sia ciò detto in grazia di quegli eretici, i quali credono che sia far torto a Gesù Cristo il confidare nella protezione dei santi. Certamente a una tal confidenza ci ha animati Dio stesso con molti esempi delle scritture, uno dei quali è quello che qui veggiamo, mentre alla virtù e alle preghiere di Paolo concesse le vite di tutte le persone che erano in quella nave. 27,27 Sospicavano che si avvicinasse loro qualche paese. Questa frase, che si avvicinasse e ci viene da quello che sembra accadere in mare, che ad uno, che va verso la terra, sembra la terra stessa accostarsi. Poterono i marinari avere indizio di terra vicina da qualche vento, che si sentisse da quella parte, imperocché vederla non potevano per l'oscurità del cielo, e perché era mezzanotte. 27,28 Trovarono 20 passi, e ci... Il passo dei latini è una misura lunga, quant'è lo spazio, che corre tra le estremità delle due braccia distese. Al primo scandaglio trovarono 20 di queste misure di profondità di mare, al secondo 15, argomento, che si avvicinavano a terra. 27,29 In luoghi aspri. Vale a dire, in luoghi pieni di scogli, che molti di tali luoghi sogliono essere intorno alle isole. 27,30 Col pretesto di cominciare a stendere le ancore dalla prora. Dicendo di volere servirsi dello schifo a fine di andare ad attaccare le ancore più lungi dalla prora. 27,31 Se costoro non restano se fuggono questi, che sono capaci di regolar la nave, voi vi perderete. Dio gli aveva promesso la salute di tutti, ma Dio aveva ordinato, e voleva, che tutti si adoperassero i mezzi umani, che loro restavano per aiutarsi. 27,34 A prender cibo, a fine di salvare voi stessi, perché possiate reggere alle fatiche, e ai patimenti, che ancor vi restano da soffrire. 27,39 Osservarono un certo seno, che aveva lido. Un seno di mare, il quale, non come sono molti altri, era cinto di rupi e scogli, ma da un lido comodo per isbarcarvi. 27,40 E tirate sulle ancore, si abbandonavano al mare. Volevano prevalersi del vento, e perciò trassero nella nave le ancore, che avevan gettate la notte. Allargati i legami dei timoni. Vuolsi supporre che le navi in antico avessero due timoni. Allargati i legami dei timoni, venivano questi a dar giù in mare, e col loro peso facevano che la nave non potesse sì facilmente essere rovesciata dai venti. E alzato l'artimone secondo il soffiare del vento e... La R-timone è una piccola vela, che si pone dalla parte di dietro della nave. Con questa prendendo un mediocre vento, procuravano che la nave si andasse accostando al lido. 27,42 Il disegno dei soldati e... Questi temevano che i prigionieri per la vicinanza del lido non fuggissero a terra, dove non sarebbe stato facile di poterli riavere nelle mani con pericolo di restare essi incolpati della loro fuga. Ma anche questa volta la presenza di Paolo è salutare a molti infelici.